Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bentornati a questo nuovo incontro pomeridiano di Bosco. Io sono Ilona. Io sono Giuliona e oggi un puntatone a noi che sta a noi molto a cuore, perché vi accompagneremo nella selva oscura della Wave, che è il nostro genere prediletto, c'è da dire questo, io lo ammetto. Un pochettino sì, tant'è che noi abbiamo delle ricerche, dei quadernini pieni di roba sulla Wave e abbiamo deciso di condividere con voi e di vedere anche che cosa voi ne pensate appunto della Wave, in particolare della New Wave, tutto quel movimento appunto anni 80 che è nato dalla commissione dell'elettronica e del post-punk, e quindi di conseguenza andiamo ad ascoltare quelle che sono, diciamo, le basi sia statunitensi o inglesi che germaniche, perché la Germania è un grande ricettacolo di New Wave, sia quelle italiane sia le nuove leve, e quindi avremo appunto queste quattro mezz'ore interamente dedicate alla Wave, che ci farà ballare, cantare, piangere anche tanto, ma soprattutto ci farà parlare del prossimo brano, che è il primo appunto di questa puntata di Bosco. Quindi iniziamo subito. È una canzone che sicuramente avrete sentito se siete giovincelli come noi, provenire dallo stereo di mamma e papà, o se siete invece un po' più attempati, ovviamente con accezione positiva, l'avete voi ballata negli anni 80. Questo pezzo esce nel 1983 ed è di Nena, e dato che si parla di Wave tedesca, è un po' difficile da pronunciare, ma spero di farcela, che è 996 Luftballons, che sarebbero 99 palloni rossi. Ovviamente Ilaria ride perché la vedo, ma è così. Ed è una canzone molto molto importante, più che altro per il contenuto politico che ha. Oltre ad aver lanciato, lei si è fatta pioniera della New Wave tedesca, e ancora oggi i suoni della New Wave contemporanea alemanna si ispirano tantissimo a questo dance pop misto di commistioni, per l'appunto, ma è molto importante per il contenuto, perché l'autore, che è Carlo Carges, sostanzialmente scrisse questo testo parlando, influenzato dalle vicende politiche, quindi parliamo di guerra fredda e poi caduta anche del, insomma, il clima della caduta del muro di Berlino, che non era ovviamente ancora avvenuto, ma lui proietta, diciamo, questa visione più in là. Quindi se riuscite a capire il tedesco, buona fortuna, altrimenti ballate e alzatevi dai divani o stoppatevi, andate in un'area stop, scendete dalla macchina e ballate al freddo, così vi riscaldate. Thank you. Krieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Giuliana, l'hai cantata tutta? Guarda, sicuramente ho capito il testo, l'ho recitato anche con un'intenzione molto drammatica tra il serio e il faceto. E sì, insomma, sì. Datemi il C1 di tedesco. Sì, ma adesso guarda, ti raggiungo, perché sai come si chiama la new wave tedesca? Infatti, volevo proprio parlare di questo. Dimmelo tu, perché io non lo so. Allora, New Deutsche Welle. Tu pensa, io avrei detto essere... Deutsche Welle. No. New Deutsche Welle. E abbiamo scoperto che praticamente girò attorno, nacque più o meno tra metà degli anni 70 e girò attorno a 5 poli, diciamo, nevralgici per la produzione appunto di musica post-punk e new wave. Furono Berlino Ovest, Düsseldorf, Hamburgo. Hamburger, Hannover e Hagen. Hagen, non pervenuta, è un po' il Molise della Germania, perché noi abbiamo provato a fare delle ricerche su questa città, ma purtroppo non abbiamo scoperto assolutamente nulla. Non sappiamo nemmeno quali artisti di fatto vengano da Hagen. Sappiamo però che esiste una Nina Hagen che appunto ha fatto la storia della wave tedesca. Ma passiamo ad un altro gruppo che è diventato famosissimo, tra l'altro, per un brano che si intitola Forever Young, quello Forever Young, I wanna be forever young. E quindi niente, praticamente i primi a come farlo. Jay-Z, io come Jay-Z. Palese. Jay-Z praticamente prese appunto questo brano, ma un altro brano che ha fatto la storia della wave tedesca, ma soprattutto la storia del mio MP3, è stato appunto Big in Japan degli Alphaville. Big in Japan è tratto appunto è il singolo di debutto che appunto ha lanciato gli Alphaville ed è appunto tratto dall'album del 1984 Forever Young, e ce lo andiamo ad ascoltare. eccoci qui rientrati sulle frequenze di Bosco, Radio Città Fujiko 103.100 FM, potrei fare anche un jingle. Abbiamo appena ascoltato gli Alphaville con Big in Japan, tra l'altro. Grande. Grandissima, una cosa che appunto pervade questo genere musicale, questo movimento che poi è la New Wave, è un po' la riscoperta anche di sonorità molto orientali, ce ne sono tanti di esempi, come del resto negli anni Ottanta diciamo che si scoprono le sonorità africane in generale, tantissima Africa, vero, tantissime sonorità africane e tantissime sonorità orientali. Curiosità, l'album Forever Young ha diciamo i titoli dell'album Forever Young messi uno sopra l'altro formano appunto la scritta Alphaville. Non lo sapevi? L'ho scoperto adesso. Che stile, direi, che stile. Che stile. Comunque, al di là di questo, il prossimo brano, Giuliona, so che tu morivi dalla voglia di metterlo, di ascoltarlo, esatto, qui a Bosco. Allora, vi racconto dell'aneddotica spicciola, tanto so che la amate e che mi ascoltate solo e soltanto perché sono una brava cantastorie. Allora, cosa è successo? Pensiamo alla puntata di questo martedì. Sì, ok, va bene. Io ho detto, allora, costruisco una puntata proprio che fitti con questo gruppo, un gruppo che è Dark Wave, quindi approdiamo al lato un po' più oscuro, torbido, dai suoni più chiusi e più bassi e più... mi verrebbe da usare la parola terrigeno, anche se so che è stata bandita dall'emittente radiofonica. Perché, e soprattutto, approdiamo a un crossover, diciamo, tra un argomento che affronteremo tra poco e questo invece che stiamo proprio trattando adesso. Loro sono i Lebanon Hanover, nome tra l'altro che ricorda uno dei cinque poli, delle cinque fucine in cui si è sviluppata la New Wave tedesca. Sono giovanissimi, in attività dal 2010 e sono un duo con voce femminile, una voce femminile tra l'altro... pazzesca, secondo me una delle migliori in assoluto nel genere, e vi facciamo ascoltare il primo singolo tratto da un disco che ha un nome molto molto molto macabro, che la mia coinquilina scozzese mi ha insegnato a pronunciare, perché io ovviamente da persona incapace lo pronunciavo come Tom for Two, in realtà è Tomb for Two, infatti Tom Rider, tra l'altro non si dice Tom Rider ma Tomb Rider, te capì? Ma pensa a te! Pensa a te, loro sono comunque i Lebanon Hanover, diciamo che non tirano su il livello della serotonina, però sicuramente ti permettono di chiuderti nella tua intimità anche in un luogo diverso dalla doccia o il cesso, quindi ascoltatevi, questa è Gallo Dance. Thank you. E loro erano i Lebanon Hanover con Gallow Dance. E tra l'altro, per i più esperti di voi, per i più addestrati al genere, probabilmente vi sarete messi in piedi a ballare con il classico step touch, la testa in avanti che guarda i piedi, molto alla shoegaze, ma siamo anche lì, perché di fatto dalla new wave partono, cioè la new wave comprende tutto quel mondo che è il post punk, lo shoegaze, lo shoegazing e tante altre care cose bellissime che appunto ci piacciono tanto. Ma andiamo agli antipodi per questo ultimo brano della prima mezz'ora. Cara la mia Giuliona, esiste una chicca tetesca, tutta tetesca, che si intitola Da da da, I don't love you, you don't love me, ha ha ha. Sembra, sicuramente è il testo di un ubriaco, cioè secondo me hanno preso sicuramente ispirazione da quelle letterine che una volta ci si mandavano, da da da, trottolino du, amoroso, du, da, da, du, da. Cani, esatto. Barboncini. Allora, il gruppo in questione sono i Trio, loro sono tedeschi, hanno avuto una vita abbastanza breve, di soli 7 anni, diciamo, a livello discografico, perché sono stati attivi dal 79 all'86 e il brano più famoso è dell'82 ed è appunto Da Da Da, ma il vero titolo è Da Da Da, I Don't Love You, You Don't Love Me, Ha Ha Ha. Ridiamoci sopra, insomma, beviamoci sopra, ridiamoci sopra. Questo io ho, beviamoci dire. Su. Allora, questo bellissimo titolo, questo bellissimo singolo, appunto, dell'82 è dell'album Trio, che è appunto il primo vero album del Trio, e loro sono appunto il Trio. Io direi che ce lo possiamo andare tranquillamente ad ascoltare. Da da da, vai, vediamo se ti ricordi l'intero titolo, dai. Da da da, I don't love you, you don't love me, hi hi hi, ah no, ha ha ha. Buon ascolto. Don't love me. Sonic Youth con Teenage Riot, il pezzo tratto da The Daydream Nation del 1988. Tra l'altro, mandare i Sonic Youth a, insomma, oltre ovviamente ad essere una grande band, mi piace farlo perché è capitanata da Kim Gordon, che è una donna, e secondo me mai come nella Wave la donna si riesce, la voce femminile non è una questione di genere, ma semplicemente una questione matematica. E anche un po' di controcultura, perché alla fine diciamo che in quel tempo vedere una donna che capitanava una band era molto raro. Con Kim Gordon avviene tutto questo, siamo all'inizio degli anni Ottanta. Tra l'altro lei scrive anche un memoir, un libro di memorie, che si intitola A Girl in a Band. Quindi insomma, da lì tantissime donne costellano la scena della New Wave internazionale. Mi viene in mente una fra tutte, Nico, che dopo la collaborazione con Velvet Underground ha iniziato un progetto solista. Mi ricordo che quando ero piccina consumai Desert Shore, che è appunto uno dei suoi album più belli. Anche lei, notevolissime influenze wave. Tra l'altro è appena uscito un docufilm, un documentario, andatevelo a vedere perché è davvero un grandissimo, una grandissima pellicola. Bene, tra l'altro a proposito di donne, mi raccomando, restate sintonizzati perché nella parte italiana della Wave ne vedremo delle belle, ma soprattutto delle belle voci femminili, tantissimo, perché appunto, vabbè, lo scoprirete dopo, non ve lo dico. Passiamo al prossimo brano, parliamo della Wave nuda e cruda in poche parole. In questo caso noi andiamo direttamente a Londra con il prossimo brano, andiamo da Gary Numan, che è stato uno praticamente dei primi sperimentatori della vera synth pop new wave appunto londinese. E praticamente che cosa fece? Scrisse questo brano che si intitola Cars. Cars è uno dei primissimi brani che lui scrisse sostanzialmente all'inizio della sua carriera. Lo scrisse nel 1979 e poi lo pubblicò come solista, ma in realtà lo aveva già scritto insieme alla band che aveva formato nel 77, che sono i Tubeway Army, che appunto furono quelli che in un certo senso portarono in auge anche un po' il punk rock e la new wave londinese in quella zona. Ma soprattutto lui è famoso per, diciamo, quella spinta elettronica che viene data alla wave, e quindi quella spinta synth pop che poi ha dato negli anni 80 un trionfo di spalline glitterate e tantissime altre cose che suonano molto bene. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare Cars di Gary Numan. Eccoci rientrati sulle frequenze di Bosco. Abbiamo appena ascoltato Gary Numan, se non sbaglio, Cars, artista che tra l'altro non conosco molto bene, quindi grazie per avermi dato l'input di conoscerlo più a fondo, ma quelli che invece andremo ad affrontare adesso sono artisti conosciuti molto bene da entrambe e credo anche dalle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Volevo sicuramente mettere tutta la discografia dei Joy Division, ma dato che le tempistiche e un imminente licenziamento non me l'hanno permesso, ho dovuto fare una scrematura e ho deciso di mettere molto verissimo. Fatto sta, Ilaria, nuovo Ian Curtis, fatto sta che ho deciso di mettere una canzone che fa da ponte. È realmente un ponte, perché l'iter di pubblicazione, ma anche di composizione e di performance, proprio di performazione di questa canzone, è tortuoso, è frastagliato, è impreciso, ma credo che sia una canzone da un potere evocativo spaventoso. Infatti io temo molto per la mia stabilità emotiva una volta che la lancerò. Parliamo dei New Order, che sono la reincarnazione dei Joy Division, nata dopo uno spiacevole evento. Come ben sapete, Ian Curtis morì a inizio anni 80 e questa canzone... Suicida il 17 maggio... 17 maggio? Penso 17 maggio, però... Credo che ci siano problemi con il tuo microfono, ma spero che abbiano capito i nostri ascoltatori. 17 maggio del 1981? Vabbè, andremo a fare delle ricerche. Fatto sta che muore suicida Ian Curtis e i Joy Division si reincarnano nei New Order. E questa fu la prima canzone dei New Order, ma anche l'ultima canzone di Ian Curtis. Infatti... sono tre le versioni note. La prima è tratta da un live, appunto, in cui c'è la voce di Ian Curtis ed è stato anche lui il compositore di questa canzone, e poi venne reinterpretata sostanzialmente da il bassista, se non sbaglio, esattamente sì, esatto. E sostanzialmente lui, per reinterpretarla, non conoscendo il testo, afferma che dovette scandagliare le originali registrazioni del brano cantato dal compianto amico con un equalizzatore grafico per riuscire a trascrivere il testo. Leggo appunto citazioni dalla pagina di New Order su Wikipedia. Sapete che la Wikipedia cultura è ormai, insomma, un imperativo. Io direi di andarcela ad ascoltare, e dato che il titolo è Ceremony, io direi che questo ascolto dovrebbe essere preso anche un po' come un rito, almeno io lo prendo sempre così. Ceremony New Order. New Order Ceremony è stato davvero un rito molto molto avvincente, che però non mi esime da spoilerarvi due o tre curiosità sulla canzone ancora. Vadi, vadi! Allora, come ha fatto benissimo notare la mia cara, carissima Ilona, ora sappiamo qual è la fonte di ispirazione di Fiumani, perché l'intro di questa canzone è, penso, spiccicato all'intro di Gennaio di Diaframma. No. Ma nessuno va, ha detto i primi versi appunto di Gennaio quando ha sentito questo incipit, proprio nessuno. È uguale, cazzo, è uguale. Però dai, non inneggiamo al plagio, che già inneggiamo a troppe polemiche, per favore. E per poi quanto riguarda i Diaframma in generale, o... Ma anche i Diaframma, cioè, una volta il nostro bersaglio era Calcutta, quest'anno Federico Fiumani, che però ho rivalutato, te l'ho detto, dopo l'ultimo live. Fatto sta che questa Miro canzone... Sassolini, perdonaci. Esatto, perdonaci, tantissimo. Questa canzone in realtà sta coverizzata da un botto di gente. Allora, tre o quattro nomi più importanti. Radiohead la reinterpretano per il loro Thumbs Down webcast il 9 novembre del 2007. Poi abbiamo i Galaxy 500, ovviamente per me sono i Galaxy 500, per favore, ora non obbligatemi a pronunciare le cose come si devono pronunciare. Poi i Shoo Shoo o Xiu Xiu, che sono la band feticcia di Tommaso, tra l'altro, la inseriscono all'interno del loro EP di debutto. E poi anche i Chromatics, i nostri amati Chromatics, la reinterpreteranno poi nel dicembre 2012. E questi sono solo alcuni, perché sono uscite anche delle edizioni speciali e diciamo particolari in occasione di ben due Record Store Days. Tu pensa, Ilaria, Accipigna. Senti, e a proposito di accipigna e di gente vestita da Melevisione, andiamo verso il prossimo brano. Il prossimo brano ci vede costretti ad indossare innanzitutto un cappello rosso a forma di ziggurat rotonda. Non so se avete presente quello che ho appena detto, però sicuramente capirete quando vi dico divo, ok? Vestiti assurdi, synth pop che arriva direttamente dall'America. Il brano è Whip It ed è il primo brano con cui appunto ho conosciuto io personalmente i nostri amici squinternati Divo. E loro appunto sono americani. L'album da cui è tratto Whip It è Freedom of Choice del 1980 ed è in piena regola un brano New Wave e Synth Pop. Siamo proprio negli anni 80 del Synth Pop e loro sono coloro che praticamente lo portano proprio a vele spiegate, aprono così gli anni 80. Andate a vedere il video perché è veramente interessante ed è carino, secondo me, a me è piaciuto tantissimo, e direi che possiamo anche andarcelo ad ascoltare. Whip It dei Divo. Give the master slip. Step on the bridge. Ci siamo appena goduti i Divo e per l'occasione, come ha suggerito Ilaria, ci siamo messi un cappellino Ziggurat rosso in testa. E ora invece, prima di farvi esplorare invece quella che è la selva aspra e selvaggia della wave italiana, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ma ritorniamo. Uno spoiler, vi dico solo che quello che sto per dirvi sembra quasi il titolo di una telenovelas, Le donne di Franco Battiato. Dopo la pubblicità ci rivediamo e risentiamo con Bosco. Voglio stare ad aspettare e le carni le ferite sotto un cielo di stelle. Ma se il cuore che io sento malato e che i lividi sono nell'anima, vieni a asciugarli tu, vieni a asciugarli tu. Domani non sarà più a me a tenere le braccia state, conficcarmi alle corde. Domani se ti cercherò avrò la faccia di un uomo pulito, tutto come una rosa, e una rosa non può appassire. Nemici in questa città, troppi fantasmi la notte ingolfano, ha troppi nemici in questa città, troppi fantasmi la notte, troppi fantasmi la notte. Voglio togliermi il bandaggio freddo e sentire il freddo di oceani, cara madre parla. Ho voglia delle mie idee, ho la forza di un pugno in faccia a chi me le ha legate. Ho la forza di una lotta più dura ed un fascino forse più grande di due guantoni da box, di due guantoni da box. E questa era Box dei Diafram. Siamo tornati in questa nuova, la nuova ora appunto di Bosco in questo martedì 27 febbraio. 27! Siamo bel ragazzo di provincia cercando un'avventura stanotte. Siamo qui appunto, abbiamo concluso la prima mezz'ora, abbiamo parlato di wave tedesca, wave inglese americana, e adesso andiamo a parlare della wave del post-punk italiano. Ragazzi, signori miei, cosa non è il post-punk italiano? Ce ne sarebbe veramente da dire tantissimo. Gli anni principali sono quelli che vanno dal 79 all'85, sono usciti dei dischi bellissimi, però parliamo appunto dei Diaframma, cara la mia Giuliona, vai. Allora, i Diaframma sono capitanati da Federico Fiumani, che è l'autore... È rimasto solo lui, ma già all'epoca nel Box, quest'album, tra l'altro questa era la title track, esce nel 1988, già all'epoca lui stendeva e cioè se la cantava e se la suonava sostanzialmente, perché testi e musiche sono tutti di Fiumani. Ha ovviamente, come ci ha insegnato Fiumani, girando almeno 7-8 volte per gli stessi locali ogni anno, il patrimonio di Diaframma viene sempre riciclato. Non si sa per far cosa, anche se, scusate, mi sono impappinata, è assolutamente capibile. Fatto sta che questa appunto era Box, da Box, del 1988, un disco che aveva un lato A, un lato B, uno più bello dell'altro, e se non sbaglio, dato che ho la copia originale a casa, perché mio padre è grandissimo fan di Diaframma, mi sa che Box era la quarta traccia del lato A. Però non lo so, cioè nel senso, se voi carissime ascoltatrici e cari ascoltatori sapete qualcosa a riguardo, potete sempre mandare un messaggino a Fujiko che poi ce lo dicono. Esatto. Comunque, per parlare appunto della i Diaframma, vabbè, avevano già fatto scuola nel lontano 1984, perché in quell'anno appunto uscì, come abbiamo detto prima, Siberia, che esatto, fu il disco principe appunto della discografia appunto dei Diaframma, e fece parte di quel trionfo di dischi che uscirono nell'84. Per ricordare, uscì Vamos alla alla playa dei Righeira, che anche loro erano un po' punk e new wave, uscì Danza di guerra dei Rappresaglia, e uscì nell'85 Desaparecido dei Litfiba. Quindi comunque stiamo parlando di dischi che hanno una certa importanza per il panorama italiano, ma una certa importanza per il panorama italiano, specialmente new wave e post-punk, ce l'ha avuto un signorotto di Catania. Ok, il signorotto... Ma stai parlando di Franco? Stiamo parlando del maestro Franco, il maestro Franco Battiato, che, sì, è vero, lui stesso con la sua musica, i suoi arrangiamenti, il suo modo di scrivere, è una persona che esce tanto da quel grande periodo synth pop anni 80 in cui lui si è inserito alla grandissima, ma soprattutto ha portato delle donne con sé. C'è il grande emisfero appunto delle donne di Franco Battiato, donne alla quale lui ha deciso di dedicare parte della sua vita artistica, dedicando appunto arrangiamenti e testi. In particolare, la prima persona, la prima donna di Battiato alla quale ci riferiamo è Giuni Russo. Giuni Russo, che noi conosciamo tutti, purtroppo la conosciamo tutti, per Un'estate al mare, ma in realtà esiste un disco bellissimo di Giuni Russo che si intitola Energie, è del 1981, e da questo disco è tratto il brano che andiamo ad ascoltare. Si intitola Una vipera sarò, e lei è Giuni Russo con la sua voce straordinaria. Per essenza, guardi le mie mani. Non c'è bisogno di parlare. Comunque se mi toccano, dov'è il mio punto debole? Divento incandescente. Una vipera sarò, Giuni Russo, brano bellissimo. Tra l'altro, la sai qual è la storia tristissima? Appunto che Giuni Russo in generale purtroppo è sempre stata conosciuta per quel brano che è Un'estate al mare. Il problema di Un'estate al mare è che fu talmente potente come brano a livello del mercato discografico, nel senso potente a livello commerciale, ok, che lo stesso disco Energie venne praticamente rinominato Un'estate al mare nell'82 quando uscì Un'estate al mare. Quindi di fatto questo disco qui, che c'entra, sì è vero, quello è un singolo, c'entra tanto con il modo di scrivere di Battiato, venne praticamente, questo disco qua venne completamente sotterrato da quel singolo, ed è una cosa che secondo me è bruttissima. Quindi andatevelo ad ascoltare, arrangiamenti di Battiato e Giusto Pio, il disco è Energie di Giuni Russo. Ma il prossimo brano ci fa ancora capire ovviamente quanto Battiato fosse immerso in questo genere, ovviamente, ma questo lo sappiamo tutti, basta ascoltare un qualsiasi disco di Battiato, insomma. Ma in particolare, appunto, parlavamo delle donne di Battiato e non potevamo non parlare della donna di Battiato, che è appunto Alice. Il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso è Chanson Egocentrique. Sempre son. io l'amo. Dille che io l'amo. Chanson, Eagle Song Free, self, self-free song. Chanson Egocentric, Alice Franco Battiato. Il brano è tratto dall'album Echoes of Sufi Dances del 1985, appunto, di Franco Battiato. E 1985, che come abbiamo detto è l'anno, diciamo, uno degli anni centrali della wave italiana. Tra l'altro, cara la mia Giuliona, lo sai quale altro album esce nell'85? Forse sì, sicuramente sì, però mi trovo impreparata, però volevo dire una cosa, no, non è vero. Ti dico solo affinità elettive. Ok, sì, ci sono. Affinità elettive tra il compagno Togliatti e noi, dei CCCP fedeli alla linea. Però volevo dire una cosa, che io sapevo che sarebbe uscito quell'album nell'85, cioè io già lo sapevo in una vita precedente, solo che non mi ricordo mai il titolo completo, cioè per me quel album ha una copertina e nel mio immaginario la copertina è il nome, capisci? Non so se ho reso. Comunque sì, io invece volevo raccontarti una curiosità, se non sbaglio. Curiosità, tutta. Esatto, da I don't love you, you don't love me, comunque Alice partecipò al festival di battesimo scusate, con Elisa. Esatto, ma partecipò anche nel 2000 con un'altra canzone semi sconosciuta, Il giorno dell'indipendenza, che si piazzò nona ed è tratta da un album che si intitola Personal Jukebox, in cui questa canzone che abbiamo appena ascoltato, cioè Chanson Egocentric, viene reinterpretata nella voce maschile da Morgan dei Blue Vertigo. Ma pensa te. Capito? Hai capito? Ma poi comunque, ovviamente, diciamo che il successo di Alice con Franco Battiato è giusto Pio, perché ricordiamo che Franco Battiato non è mai da solo nei lavori che fa, ma c'è sempre quell'anima pia di Giusto Pio, ok? Pio, giusto Pio, ok? E tra l'altro appunto scrissero insieme loro due per Elisa appunto nel 1981, tra l'altro solo un anno prima lei si conobbe con Battiato, quindi nell'arco di un anno nacque questo amore folle per la voce di Alice e quindi nacque appunto quel bellissimo brano che è per Elisa. Detto questo, passiamo al prossimo brano con calma, cerchiamo di entrare nel mood. Certo. Loro sono stati spesso a Sanremo. In una maniera tra l'altro iper stravagante. Mi ricordo Vero. Lei con questi giovincelli col tablet, avrete già capito di cosa sto parlando. È andata a Sanremo 2 o 3 anni fa, lei da sola, con un'orchestra di tablet praticamente. Non mi ricordo come si chiamavano loro. E stiamo parlando ovviamente di Antonella Ruggero. Eh sì. Cosa succede? Succede che 2 anni prima, nel 1985, che anno era, Ilaria? L'83. E cosa uscì nell'83? Ma forse Tango dei Mattia Bazar? Tu sei molto più preparata di me. Esatto, anno 1983. Tango è il 7° album dei Mattia Bazar. E tra l'altro l'iter di pubblicazione di questo album è anche qui piuttosto curioso, perché prima venne pubblicato in vinile e poi nell'87 rimasterizzato. Nell'87 appunto venne sostanzialmente pubblicato in un CD e poi una versione deluxe sì, mi ero un po' impappinata perché, sai, tutta questo hype per la wave mi porta a scordare come, come ci si mette in contatto con le persone. E poi venne rimasterizzato in una deluxe edition Tango nel 2001. Quindi, insomma, diciamo che era un po', è sempre stato un disco di nicchia. Praticamente questo disco ebbe un successo stratosferico, raggiunge la prima posizione nella classifica italiana degli album più venduti nel 1983 e tra l'altro Rolling Stone Italia lo piazza tra i 100 dischi più belli di tutta la storia della musica italiana. Sono pienamente d'accordo. Assolutamente. Una cosa molto curiosa è che di questo disco ci si ricorda solo di Vacanze Romane. Perché appunto è stato presentato al Festival di Sanremo nel 1983 e si aggiudicò anche il premio della critica. Ma in realtà questo album è fucina di canzoni ricercate, d'avanguardia, di una sperimentazione davvero inedita per i tempi che correvano. Che ti provocano tra cui uno shock. Un elettroshock, esattamente. Infatti il pezzo che ci andremo ad ascoltare è proprio elettroshock, ma io mi ricordo anche Intelligenza o Palestina. Fatto sta che elettroshock vince un concorso all'epoca molto in voga, che era Vota la Voce, e viene ripubblicato come singolo nell'83 al di là dell'album in vinile. E insomma è un pezzo, io lo definirei piuttosto futuristico. Quindi elmetto, UFO, schiacciatevi sul sedile, pigiate l'acceleratore non troppo perché altrimenti vi arriverà multa e catapultatevi in questa nuova dimensione. Elettroshock, Mattia Bazar, da Tango del 1983. We'll be right back. Continua sotto di noi Mago Mortis dei Caron Dimonio. Siamo nell'ultima ora di questa nuova puntata, appunto, di Bosco di martedì 27 febbraio, addirittura d'arrivo, ma a noi ci piacciono comunque le nuove leve, speriamo sempre nel futuro. Yeah! Più Europa per tutti. Per favore, siamo in par condicio. Per favore, a parte che più Europa per tutti, adesso il direttore entra dentro e ti strappa i capelli uno per uno. E poi mi ci metto io. Comunque no, siamo in campagna elettorale. La par condicio. No, vabbè, ma più suoni europei, visionari, no? Più suoni un po' oltremanica. Allora, no, vi spiego perché. Perché riferisco certe parole a questo brano. Allora, stiamo parlando di Filippo Scalzo e Giuseppe Lobue. Loro hanno questo gruppo che sta a Bologna, sono al terzo disco Religio. Questo brano, I Mago Mortis, è tratto dal loro secondo disco e si intitola Solaris. Il primo disco si intitolava Gestalt. Sono, secondo me, i fieri ereditieri. Eredi. fieri eredi. I fieri Paris Hilton. I fieri Paris Hilton della post, del post-punk e della New Wave. Andateveli ad ascoltare, ma soprattutto andate ad ascoltare anche un altro gruppo, appunto, di Filippo Scalzo, che sono appunto i Black Veils, anche loro in questa scia però molto più shoegaze. E diciamo che spaziano tantissimo, e quindi mi è venuto in mente quello. Comunque, visto che siamo per la par condicio elettorale, io mi sono letta tutti i programmi elettorali e devo dire che a livello di grafica quello di Più Europa è molto più colorato. Bene, sono molto felice, come colorati sono, colorate sono le copertine dell'album che, degli album che andremo a dipanare in quest'ultima mezz'ora, perché stiamo parlando di un gruppo che ha fatto breccia nel mio cuore. Io continuo a parlare per nascondere l'evidente difficoltà di votare il 4 marzo. Comunque, Madonna, ma stiamo scherzando? Però sono fiera del fatto che comunque la mia scrematura l'ho fatta, capito? E sono giunta ad avere soltanto 0 partiti a cui votare, perché giuro, io ho escluso tutto un settore, ok? L'ho giustamente escluso. Il settore che mi è rimasto l'ho praticamente snellito fino all'osso, quello che mi è rimasto non è niente. Non ci rimane che piangere. Fa niente. Votiamo ad Inolfi. Vabbè, non ci resta che piangere. Io spero di commozione quando andrete ad ascoltare questo pezzo. Allora, loro sono i Div che escono nel 2012, appena un anno dopo la loro formazione. Ricordiamo che sono di Brooklyn, con un album pazzesco che si intitola Oshin. Un album che, per esempio, è napoletano. Oshin. Fatto sta che quest'album mi ricorda da morire per quanto riguarda i ritmi, la ritmica, tutta la sessione di batteria, di tamburo, i Chameleons, anche loro grandissimi esponenti della New Wave. Fatto sta che sto disco è una bomba, io me lo scarico, poi vado al Covo Club, ascolto il DJ set di Peppe Lo Bue, che è per l'appunto la voce di Caron Dimonio, e mi mette questa canzone che è Dosed, che tra l'altro è la penultima canzone del disco. Cioè, loro ti fanno penare per 12 tracce fino a che poi non arriva Dosed e lì impazzisci. Una curiosità, che poi loro sono usciti nel 2016 con un altro album che in realtà è molto più agrodolce, se devo dire, meno ispido e meno plumbeo rispetto a Oshin. Ed è plumbeo! Abbiamo trovato la parola del 2018! È un disco plumbeo, sì, e non è un disco molto allegro. Mentre l'ultimo disco, invece, è più, come stavo dicendo, un po' dolce amaro, agrodolce, perché sostanzialmente è un itinerario musicale all'interno della dipendenza del cantante, che è Zachary Cole Smith, per due cose. La prima è l'eroina, la seconda è l'amore di una donna che non l'ha più cagato, che si chiama Sky Ferreira, sua storica fidanzata, nonché un'ottima compositrice, un'ottima artista. Noi ci andiamo ad ascoltare, dopo questo gossip alla Beautiful, Dosed, e capite per quale motivo io sia così affezionata alla voce di questo gruppo, che secondo me è davvero una rivelazione. questi erano i Div con Dose da Oshin, album del 2012. Avete ballato, vero? Tu, Ilaria, cosa hai fatto? No, io ho ballato tantissimo. Tra l'altro mi sono anche messa gli occhiali da sole in casa perché mi sembrava giusto, insomma. Giustamente, tra l'altro il loro pezzo si chiama Under the Sun, volevo anche dirtelo, appunto. Ascoltatelo. E quindi di conseguenza io forse mi sono sentita un po' appunto a mio agio con questo brano. Ma detto questo, passiamo ad altre leve italiane di questo grande purpurri che è la New Wave, che è il post-punk. E andiamo a Prato. A Prato nasce, tra l'altro, parentesi, big a parentesi a Prato. Allora, big parentesi per la zona toscana. La zona toscana è stato un ricettacolo di musica wave e post-punk e ha dato veramente alla luce gruppi come Litfiba, gruppi come Diaframma e tantissima altra roba che vale veramente la pena. L'unica cosa che riscontriamo, un denominatore comune, è quello praticamente di cantare tutti... Chissà perché. Insomma, tu non puoi aspettarti tanto da persone che hanno una lettera dell'alfabeto in meno nella loro competenza linguistica. Bene, e lo dico, Bosco ha perso tutti i toscani all'ascolto. No, non è vero, lo dico da persona che ha una forte inflessione toscana nel modo in cui parla. Allora, perché padre è toscano, dai, mi salvo. Accompagnata da un toscano, quindi sostanzialmente fiorentino, cioè empolese, che sta sotto la provincia di Firenze. Quindi insomma lo diciamo di parte. Sicuramente non ti puoi aspettare cose diverse da chi non usa la C. Esatto. E quindi di conseguenza, vabbè, noi adesso andiamo appunto a parlare di questa band. Sono i Tanks and Tears. Loro sono Matteo Cecchi, Claudio Pinellini e Francesco Ciulli. Vengono appunto, come abbiamo detto, da Prato e hanno rilasciato un EP che si chiama Know Yourself nel 2015 e un disco recentissimo appunto nel 2017 che si intitola Aware. Loro ci piacciono veramente tantissimo, li amiamo tantissimo. In particolare amiamo questo brano che è il secondo brano, se non sbaglio, del loro EP, che è Trying to Forgive, appunto, il brano che stiamo andando ad ascoltare. Vedo Giuliona qui, si sbrilluccicano appunto gli occhi perché lei lo ama alla follia e quindi direi che ci andiamo ad ascoltare Trying to Forgive dei Tanks and Tears. We'll be right back. to Forgive, Tongues and Tears. Questo era il penultimo brano della nostra puntata di Bosco e andiamo verso una conclusione che anche ci piace tantissimo, perché le nuove leve di questa wave, di questo post-punk, hanno portato alla luce una band che io sinceramente preferisco in acustico, perché in acustico fanno una cosa strepitosa, ma anche così fanno una cosa iper strepitosa. Giuliona, parlacene in questa chiusura di Bosco. Twin Shadow, Repubblica Dominicana, classe 1983, è lui l'artista a cui ci stiamo tutti quanti riferendo. Ha pubblicato un botto di roba, in realtà si è sempre autoprodotto sotto un'etichetta di sua proprietà, cioè lui se la canta, se la suona proprio da solo. Ma tutto quello che le persone che lo circondano non stanno col, cioè li cambi in genere. Io pensavo fosse una band, devo essere sincero. No, ha dei turnisti fissi, ma diciamo che è un po' come, insomma, Florence and the Machine. Lei, Florence, per l'appunto, è contornata da turnisti che in realtà poi sono la band fissa, un po' Nick Cave and the Bad Seeds, insomma. Sì. Tra l'altro, a proposito di Florence and the Machine, lui ha proprio aperto Florence, ha supportato il tour statunitense di Florence nel 2012, ha partecipato a un sacco di rassegne musicali importantissime, citiamo per esempio il Coachella o il Primavera Sound, ed è un artista pazzesco. Ha all'attivo solo e soltanto tre album, Forget, Confess and Eclipse, e noi ci andiamo ad ascoltare appunto un brano tratto da Forget del 2010, che è un brano, è una ballad new wave, perfettamente scritta all'interno del genere, piuttosto romantica. Stiamo parlando di When We're Dancing, e lui chiede alla sua donna, anzi chiede agli astanti, di lasciare da solo di lasciare da soli, cioè lui e la sua donna, mentre si godono quest'ultimo ballo. Quindi noi vi lasciamo nelle vostre case in solitaria o nelle vostre macchine, insomma ovunque in solitaria, godetevi quest'ultimo ballo. Se volete ci trovate martedì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle ore 15 alle ore 17. Se non vi siete stancati di noi, su Bad Web Radio, un portale radio indipendente, super fico e super frizzantino, con un programma tutto dedicato alla musica indipendente, soprattutto emergente. E se vi siete persi l'ultima puntata di Bosco, quella di martedì scorso, non vi preoccupate, che se mettete mi piace alla nostra pagina Facebook l'avrete, avete tutto di più. Esatto, Giuliana ha detto tutto, quindi non aggiungo altro se non, se siete indecisi il 4 marzo scrivete Ilona Pozzi, andrà tutto bene. E poi niente, vi salutiamo, un bacione, When We Are Dancing dei Twin Shadows. A martedì prossimo. Ciao.